Oggi parliamo di film. 3. Match Point, Orgoglio e Pregiudizio, Ferro 3. Match Point è l'ultimo film di Woody Allen. Nel cast Scarlett Johansson, Jonathan Rhys-Meyers, Emily Mortimer. La durata è 2 ore e 5 minuti. In genere è drammatico. Questo film, dopo anni di insulse commedie, torna un grande Woody Allen, e fortunatamente solo alla regia. L'ambientazione è molto elegante in Inghilterra. Bella gente, belle case, bei giardini, bei vestiti, eccetera, e campi da tennis. Musica molto curata, musica operistica. In questo contesto si inseriscono con forza due mine vaganti: una bella, sontuosa e molto stropicciata Nola e un fusto occhi blu Chris, arrampicatore sociale da slalom gigante fatto in salita. L'incontro di quelli fatali ossessivi provoca danni collaterali gravi. Chris è tanto cinico quanto ottuso da prendere decisioni estreme, e la fortuna gli sarà amica. Il film è amaro ed è molto crudo, ma tutto è servito con impareggiabile leggerezza, con ironia e con una serie di rimandi molto colti a Bergman, a Hitchcock e anche un po' di Dostoevsky. La battuta più fulminante è di Nola, che è venuto a letto con me, non ha mai chiesto indietro i soldi. Parla Nola e sa quello che dice, ma non sa però quanto Chris poi pretenderà invece indietro. Il secondo film è una felice trasposizione del romanzo di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, regia di Joe Wright, che ne scrisse la prima versione a soli 21 anni, nel 1796. Le cinque sorelle Bennet sono mandegre e parecchio trascurate sul piano dell'educazione di signorine di buona famiglia. La madre è terrificante e sarebbe da nascondere, anche se va capita la sua ossessiva preoccupazione di sistemare le figlie senza dote. Il padre è un filosofo, Donald Sutherland tenero, che sa rispettare la libertà delle sue ragazze. Tra le cinque, Jane è la più bella ed austera e sposerà bene. La madre dirà: non poteva essere così bella per niente. Ma l'epicentro della storia è Elizabeth. Keira Knightley è la protagonista ed era anche candidata al premio Oscar, un po' esageratamente. Intelligente, risposta pronta per tutti, orgogliosa, tanto da essere pronta a mettersi il cuore sotto i piedi. Ma lui, Darcy, è altero e ricco, anche ricco in modo imbarazzante, ed è prigioniero di un carattere ombroso. Saprà scalare un enorme muro di pregiudizi sociali ed economici e gettare le ortiche e la sua freddezza per apparire bello e incandescente almeno due volte nell'arco del film: nel parco sotto la pioggia e all'alba camminando in una brughiera per arrivare a recuperare il cuore fatto a pezzi di Lizzie. Finalmente, l'aspettavamo tutti e avevamo molto temuto una straziante perdita, invece un Giulietta e Romeo che finisce bene. In una società dove il pensiero dominante di ogni ragazza era trovare un marito comunque, Elizabeth sa rifiutare un ricattatorio matrimonio di interesse, e però poi in premio avrà il meglio. Fa piacere vedere questo film di buoni e leali sentimenti, specie dopo il brutale Match Point, di cui anzi rappresenta l'antidoto. E fa piacere sentire i ragazzi applaudire alla fine della proiezione, perché fanno il tifo per la storia d'amore di Darcy ed Elizabeth. Il terzo film è Ferro 3, del coreano Kim Ki-duk. È una storia d'amore eccentrica, o forse solo la versione coreana di un grande amore. Lui è Tae-suk, entra nelle case momentaneamente disabitate e se ne prende cura all'arrivo degli inquilini, però scompare. In una di queste case trova lei, sola e dolorante da rappresentare metafisicamente la casa più vuota che ci possa essere. Non a caso il titolo originale del film è proprio La casa vuota. Lui deve occuparsene in ogni modo e sfida società, marito, prigione e carcerieri e anche le leggi della fisica, ma saprà prendersi cura di lei. Il film ha vinto il Leone d'Argento per la regia a Venezia nel 2004 e il titolo italiano, Ferro 3, indica una mazza da golf che il protagonista usa non solo per giocare. Di questo autore ho anche visto Primavera, Estate, Autunno, Inverno e poi di nuovo Primavera e La Samaritana. Sono tutti film molto particolari, teneri ma con un sottile percorso di crudeltà che sgomenta. I protagonisti sono molto silenziosi e molto lievi e vivono l'amore con la gentilezza nello sguardo e nel rispetto dell'altro, ma sono anche capaci di gesti inaspettati e a volte cruenti. Penso che vedrò anche l'ultimo film arrivato, L'Arco. Visto che siamo tutti pazzi per la neve e per il ghiaccio, a cinque cerchi, forse è il caso di segnalare un thriller artico uscito in Danimarca nel 1992, due anni dopo in Italia per la Mondadori, Il senso di Smilla per la neve. L'autore è Peter Haug. Smilla è una donna che vive a Copenaghen, ma viene dal silenzioso mondo della Groenlandia, è una Inuit per parte di madre, ed è esperta di glaciologia, cioè capisce la neve e legge il ghiaccio. Sostanzialmente è una donna sola che rimbiance la sua infanzia con la madre sulla calotta artica e porta con sé l'essenzialità di quell'esistenza. E forse studia gli elementi di Euclide perché vi ritrova quella stessa essenzialità. Ha un particolare legame affettivo con Esaias, un bambino inuit figlio di una vicina. Il bambino una sera scivola dal tetto di casa e muore. Smilla legge sulla neve le ultime impronte del piccolo amico e formula un'ipotesi diversa dall'incidente. E da qui inizia un inquietante viaggio verso la verità, che la riporta sulla calotta polare, dove i luoghi hanno nomi da fiaba. Nuuk, Gelalta, Capo Farve, Thule, Kanaak, terra di Rasmussen, e invece nascondono un terribile segreto legato allo sfruttamento delle risorse minerarie della Groenlandia. Esiste anche un ottimo film che Billy August ha tratto nel 2000 dal libro, con Julia Ormond, Gabriel Byrne e Richard Harris. Arrivederci.